Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, mi trovo nella bella Perugia perché sto seguendo gli itinerari della vita del giovane Raffaello. Raffaello era nato a Urbino, ma la città di Urbino era facilmente collegata anche a quei tempi con la Valle Tiberina grazie al passo di Bocca Trabaria. Tra l'altro questo nome significa che c'erano i boschi e le travi di legno che venivano tagliati lì, poi buttati a valle e grazie al Tevere fatti galleggiare fino a Roma. Ecco, i romani avevano trovato un sistema molto intelligente per portarsi il legno. Bene, questo passo portava verso la Val Tiberina, quindi Borgo San Sepolcro, città di Castello e Perugia. Perugia era una città molto importante per un giovane apprendista, fondamentale perché viveva il Perugino, cioè uno dei più grandi maestri precedenti l'età di Raffaello. E Raffaello frequentò e studiò moltissimo Perugino, lo imitò nella sua prima maniera ed è normale che le prime opere, oltre a Città di Castello, le facesse nella città di Urbino. E qui ebbe l'occasione di realizzare opere davvero molto importanti. Iniziò con una grande pala per delle suore, le consorelle di Monteluce, e una pala che cominciò e non realizzò praticamente mai, alla fine un suo allievo. Poi però, per fortuna, nella grande chiesa di San Francesco in Prato, oggi ancora meravigliosa e tra l'altro appena restaurata, realizzò uno dei capolavori più importanti, la pala della famiglia Oddi, una delle più importanti famiglie della città di Perugia. È una grande composizione dove si vede l'incoronazione della Vergine, sotto ci sono gli apostoli intorno alla tomba della Vergine che la vedono ascendere al cielo. Oggi si trova nella Pinacoteca Vaticana, perché i papi avevano una certa interesse per le opere di Raffaello che si trovavano a Perugia, città papale. Infatti più avanti Raffaello ne ha realizzato un'altra di grande capolavoro, la cosiddetta Deposizione Baglioni, che oggi si trova alla Galleria Borghese. Perché? Perché a un certo punto un rampollo di casa Borghese, il cardinale Scipione, aiutato dal Papa che era Paolo V Borghese, di notte andò nella chiesa di San Francesco in Prato di Perugia e si portò via il capolavoro di Raffaello, regalò una copia, ma i perugini ancora oggi non sono molto contenti di questo scambio. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it.